giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Asili, nido, risorse in arrivo ma limitate, fondi solo per due aree in regione Monfalconese, area collinare di San Daniele. Situazione in stallo alla ex Flex, oggi Adriatronics di Trieste, lavoratori in presidio minacciano di occupare la fabbrica. Strumenti limitati contro i dazi USA sui vini, in consiglio regionale le preoccupazioni delle 9.000 imprese del settore. Reddito di cittadinanza e assegno di inclusione senza requisiti, 36 percettori segnalati dalle fiamme gialle di Trieste. Gelate in pianura dopo le temperature calde della scorsa settimana a Fiumicello, aziende agricole in allarme per la frutta. Domani la giornata nazionale delle università, nella nostra trasmissione TV Buongiorno Regione, il punto sul rapporto degli Atenei con il territorio. 11:31, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha firmato il decreto che consentirà di costruire nuovi asili nido con fondi del PNRR. Dall'altro ieri, lunedì, i comuni possono presentare le manifestazioni di interesse. In regione le aree che potranno accedervi sono il Monfalconese e l'area collinare di San Daniele. L'obiettivo è quello di eliminare le differenze territoriali nella disponibilità di asili nido affinché ogni bambino possa avere accesso ad un'educazione di qualità. Per questo da lunedì sono disponibili nuovi fondi del PNRR. È fondamentale per il Ministero dell'Istruzione intervenire fin dalla più tenera età per colmare i divari sociali, facilitare le famiglie e quindi il lavoro femminile, incrementare il tasso di natalità. Il fine è raggiungere l'obiettivo europeo della copertura del 33% dei servizi per la primissima infanzia. Il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni più virtuose sotto questo profilo. La media è del 38% di copertura. In termini numerici significa una capacità ricettiva di 8.259 posti per bambino, suddivisi in 315 strutture su tutto il territorio. 84 di queste sono pubbliche, le altre private. Due le aree che, stando ai dati esaminati dall'assessorato regionale all'istruzione, potranno accedere a questa linea di finanziamento del PNRR, il San Danielese e Monfalcone. In particolare nella città dei cantieri la disponibilità di posti negli asili nido è del 27% rispetto al numero totale di bimbi dai 0 ai 36 mesi. Oltre all'intervento del PNRR sono in corso anche quelli regionali e statali che da soli porteranno a sfiorare i 9.500 posti disponibili entro la fine dell'anno. La nostra stima, ha spiegato l'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen, è che entro il 31 dicembre raggiungeremo la copertura del 45%. Il dato relativo alla copertura non riguarda la domanda di asili nido, ma il numero assoluto di bimbi che hanno meno di 3 anni. Per molti di loro c'è una rete familiare che garantisce supporto alle madri. Per le mamme che invece per necessità o per scelta optano per l'asilo nido, la Regione interviene in maniera importante, sia per abbattere i costi di gestione, sia per abbattere gli oneri a carico delle famiglie, coprendo quasi per intero il costo delle rette. Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. Questa mattina si è svolto un presidio dei lavoratori davanti ai cancelli della ex Flex, ora Adriatronics, di strada al Monte d'Oro di Trieste a fine febbraio, con l'apertura del fondo tedesco Faircap alla vendita dell'azienda, un soggetto in grado di reindustrializzarla e garantire occupazione per i lavoratori. Si era aperto uno spiraglio, una situazione che è però entrata in stallo e ora gli addetti minacciano di occupare lo stabilimento. Presidi permanenti e addirittura l'ipotesi di un'occupazione vera e propria della fabbrica. Gli operai dell'ex Flex, da qualche settimana Adriatronics, dopo il passaggio di proprietà al fondo tedesco Faircap, non escludono alcuna forma di lotta contro la nuova società, che secondo i lavoratori non ha nessuna volontà di rilanciare il sito di Muggia. Mossa puramente speculativa, dicono, temiamo vogliano spacchettare edifici e macchinari, provare a chiedere gli ammortizzatori sociali e poi mettere tutti in mobilità. Timore condiviso da istituzioni locali nazionali che non hanno ricevuto nessun piano industriale, eppure potenziali compratori ci sarebbero: un gruppo tedesco-israeliano e uno slovacco operanti nel settore della difesa, disposti a rilevare lo stabilimento ma a un prezzo congruo. La nuova proprietà, ha sottolineato il leader della Wilm, Antonio Rodà, minaccia di fatto i licenziamenti se non verranno concessi ammortizzatori sociali, ma concedergli significherebbe soltanto spostare in avanti il problema. Il quesito dei sindacati di regione e di governo sull'interesse a reindustrializzare è rimasto senza risposta. Se non hai un piano industriale, devi vendere a condizioni di tutela sociale, tuonano i rappresentanti dei lavoratori. Lo stabilimento muggesano dell'ex multinazionale, in crisi da anni e di fatto non operativa dopo che il principale cliente Nokia ha deciso di non confermare le commesse, impiega circa 350 lavoratori. Muggia, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. In Consiglio regionale, in apertura di lavori questa mattina, lo spazio riservato alle interrogazioni a risposta urgente. Una verteva sullo spettro dei maxi dazi che la presidenza statunitense intenderebbe porre sul vino europeo, quindi principalmente quello italiano e francese, come contropartita di quelli decisi dall'Europa sull'importazione del whisky americano. Sono limitati gli strumenti in mano alla regione per contrastare i dazi americani su vini, lo ha spiegato l'assessore all'agricoltura Stefano Zani, rispondendo alle interrogazioni di Marco Puzzo del Partito Democratico e di Mirko Pisan dell'Unione Slovena. Entrambi si sono fatti portatori delle preoccupazioni delle 9.000 imprese del settore vitivinicolo. Il mercato statunitense è uno di quelli che negli ultimi anni è cresciuto di più e rappresenta il 22% delle esportazioni italiane di vino. Gli eventuali dazi del 200% annunciati da Trump chiuderebbero di fatto il mercato americano, a differenza di altre percentuali che sarebbero più gestibili, ha aggiunto Zanier. Secondo l'assessore, la regione avrebbe sostanzialmente le mani legate perché la legislazione europea non permette la compensazione di perdite di mercato. Tuttavia, ci sono misure che possono aiutare le imprese mirate a contrastare la sovrapproduzione, di cui c'erano sintomi evidenti ben prima delle minacce di dazi. Molte delle restanti interrogazioni si sono incentrate sulla questione sanità, in particolare sulla possibilità che gli ospedali di Latisana e Spilimbergo esternalizzino alcuni servizi a soggetti privati. Non c'è alcuna privatizzazione della sanità, ma si tratta semplicemente di ipotesi di partenariati pubblico-privato avanzate non dalla politica ma dalle aziende sanitarie sulla base di norme vigenti, ha spiegato l'assessore Riccardo Riccardi rispondendo ai dubbi sollevati dai banchi del Partito Democratico. Antonio Di Bertolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. I finanzieri del Comando Provinciale di Trieste hanno individuato 36 persone tra italiani e stranieri che tra il 2023 e il 2024 hanno percepito il reddito di cittadinanza, l'assegno di inclusione in assenza dei requisiti di legge, per un importo di oltre 200.000 euro. I casi emersi sono stati segnalati alla Procura. Per alcuni di loro è emersa una sproporzione tra i dati dichiarati e le reali disponibilità economiche. Molti, anche cittadini extracomunitari, che hanno dichiarato il falso sui requisiti per la permanenza sul territorio italiano. Alcuni percettori sono stati individuati grazie ai servizi di contrasto del lavoro in nero o irregolare sul territorio. In dei negozi di Trieste alcuni lavoratori dipendenti sono risultati infatti anche percettori del reddito di cittadinanza grazie a una mancata notifica all'INPS dell'inizio del contratto di lavoro. In altri casi i lavoratori erano impiegati in nero, senza formale assunzione. Gli accertamenti sono stati anche estesi al neointrodotto assegno di inclusione. Anche per questo sussidio i diversi soggetti che ne hanno usufruito indebitamente sono stati segnalati dalle Fiamme Gialle alla Procura. E a Udine la polizia locale, nel corso di un'attività di controllo in Viale Leopardi, ha sanzionato per 5.000 euro un guidatore di nazionalità straniera che ha esibito una patente di guida contraffatta, deferendolo poi all'autorità giudiziaria per la contraffazione del documento. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. In un controllo in Viale Trieste poi la polizia locale ha inflitto una multa di 2.000 euro a un conducente maliano alla guida di un'auto colpita da sequestro per precedente guida senza assicurazione. L'uomo è stato anche deferito all'autorità giudiziaria, mentre il veicolo è stato confiscato. Lavori di miglioramento nella perizia suppletiva e di variante dell'intervento in piazzale di Casa Rossa a Gorizia. Tra le modifiche decise c'è la realizzazione di una rotatoria all'incrocio di largo Fiamme Gialle, via Cravos, via Giustiniani, via della Casa Rossa, per rendere più scorrevole il traffico. Saranno adattati così anche i percorsi pedonali per una migliore accessibilità anche per le persone con mobilità ridotta. La pista ciclabile sarà realizzata interamente in asfalto e saranno realizzate anche nuove aiuole con tigli. Le migliorie decise non richiederanno ulteriori esborsi per l'amministrazione, ha fatto sapere il comune di Gorizia. Si resterà infatti nell'ambito del quadro economico che ammonta a 3.300.000 euro. Il comune di Udine sta svolgendo le prime piantumazioni dell'anno, inserendo 34 nuove alberi in diverse aree verdi comunali in una vasta campagna di piantumazione. L'assessore al verde pubblico Ivano Marchiol sta poi lavorando alla sostituzione di alcuni alberi il cui innesto lo scorso anno non è andato a buon fine. Ora il meteo, il cielo è sereno su tutta la regione, le temperature registrate alle 11 a Trieste 8 gradi e 5 decimi, a Gorizia 10 gradi, a Udine 9 gradi e mezzo, a Pordenone 9 gradi, a Tolmezzo 8 gradi, a Forni di Sopra 6 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 5 gradi e mezzo, a Sappada 4 gradi, sul Piancavallo 2 gradi e 5 decimi, sul Monte Zoncolan 1 grado positivo, sul Monte Lussari 5 decimi di grado sopra lo zero, sulla costa Lignano 8 gradi e 5 decimi, 8 a grado. Le previsioni a cura dell'Agenzia regionale di protezione ambientale: per questo pomeriggio cielo sereno con aria secca, per domani cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, per il passaggio di qualche velatura in quota e la formazione di qualche annuvolamento sulle prealpi, possibili ancora locali gelate notturne anche in pianura. È stata una notte di temperature sotto zero in Friuli Venezia Giulia, anche in alcune località della pianura e della bassa. Gelate che mettono ora a rischio la produzione della frutticoltura regionale, con alberi come pesche e susine che in questi giorni sono in fioritura. Siamo andati a Fiumicello, dove in diverse aziende sono stati effettuati interventi di protezione attiva dal gelo, come spiega Carlo Feresin. I bollettini dell'Osmer davano un rischio forte di gelata e difatti siamo andati leggermente sotto lo zero, fortunatamente non così tanto da creare dei danni in questa fase fenologica delle piante. E se ci fossero altre notti con temperature sotto lo zero? E noi, almeno in parte dell'azienda, ci siamo attivati con delle irrigazioni sopra chioma sui peschi o sotto chioma in altri impianti, con una irrigazione costante riuscire a mantenere la temperatura vicino allo zero ma non sotto, temperatura abbastanza sicura, anche se è comunque un lavorare sul filo del rasoio, ecco. A quale temperatura le pesche subirebbero dei danni? Allora, adesso in fase fioritura, così fino a meno 2 ci sono di solito danni accettabili, anche se varia da varietà a varietà. E se oltre i 2 sotto zero ci sono già, comincia a bruciare l'interno del fiore, per cui poi non c'è produzione. Se sono frutti già legati, già formati, basta un grado sotto zero e si lessa e poi non c'è il prodotto, ecco. Quindi il rischio, il pericolo, quello di cui voi avete paura, è che nei prossimi 15-20 giorni, con l'andare insomma del tempo e anche delle fioriture, se le temperature andassero sotto lo zero ci sarebbero danni maggiori. Sì, e negli ultimi anni, 2021, abbiamo avuto proprio un danno del 90% oltre il 8-9 di aprile. Tornando ancora più indietro, abbiamo avuto danni grossi anche verso il 20 di aprile, 19 mi pare, di aprile, per cui è ancora un mese a rischio. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Oggi ricorre la festività di San Giuseppe, santo patrono degli artigiani. Il settore in regione negli ultimi anni ha registrato una leggera crescita. Abbiamo intervistato Eric Spanger, termo idraulico del Friuli, che ci ha descritto la sua vita e la sua attività in un ambito in continuo cambiamento. Alzarsi presto, lavorare quasi tutti i giorni, niente orari fissi, è la vita dell'artigiano passata tra officine e cantieri e camion da caricare e scaricare. Per Eric Spanger, termoidraulico di San Giovanni a Natisone, è un mestiere imparato in casa. Lui e suo fratello hanno ereditato l'attività dal padre, aperta oltre 40 anni fa. Dopo gli studi al Malignani ha cominciato subito. L'esperienza dice te la fai lavorando, ma non basta. In un mondo che cambia di continuo bisogna aggiornarsi sempre sui materiali e sui macchinari, altrimenti si resta indietro. Una volta spiega, la tecnologia era pochissima e l'attività era soprattutto manuale. Adesso, dice, si deve andare a lavorare quasi con il computer. Soprattutto è cresciuta la burocrazia a livelli esagerati, uccide i piccoli artigiani e porta via tempo al lavoro in cantiere. A cambiare è anche la modalità di lavoro. Con la crisi è diminuita la quantità e questo ha portato a instaurare sinergie tra professionisti diversi. Noi lavoriamo tanto con la collaborazione tra artigiani, 5-6 aziende che si danno una mano e che così riescono a fare lavori più grandi. Quello che ama del suo lavoro è il rapporto con il cliente. In una giornata può incontrarne anche 8-9 e con ciascuno è disposto a impiegare anche ore per spiegare il funzionamento dell'impianto. Il cliente deve sapere come funziona, dice. Per il futuro il lavoro c'è e continuerà a esserci. Alcune cose però cambieranno. I grandi cantieri li seguiranno le grandi imprese. I piccoli dovranno occuparsi degli interventi minori e più tecnici. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Le attività manifatturiere che hanno scelto di continuare a produrre in montagna e da lì esportano in tutto il mondo diventano anche ottimi testimoni dell'unicità dei luoghi in cui sono insediate, come la Eurols, azienda metalmeccanica con sedi produttive in montagna, che ha fatto conoscere Valcanale, Canal del Ferro, Varresia e Carnia, una delegazione di imprenditori provenienti dal Brasile, accompagnati a scoprire il territorio dal presidente di Eurols, Renato Riles. La comunità montana ha evidenziato il ruolo positivo delle realtà imprenditoriali insediate in montagna nel contribuire a rendere i territori attrattivi anche a fini turistici. Domani è in calendario la giornata nazionale delle università, che prevede appuntamenti aperti anche al pubblico e opportunità per fare il punto sul rapporto degli Atenei con il territorio in un anno in cui sia Trieste sia Udine vedranno l'avvicendamento dei rispettivi rettorati. Una regione piccola geograficamente, ma grande sul piano del sistema universitario. Sono oltre 30.000 gli studenti che frequentano gli Atenei di Trieste e Udine, quasi equamente divisi, più di 300 i ricercatori alla Sissa. Il rettore dell'Università di Udine, Roberto Pinton, lascerà Palazzo Antonini Maseri a settembre. Oggi la prima votazione per decidere chi gli succederà. Io credo che l'università sia diventata un punto fondamentale, cruciale, per lo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio, a parte che è nata anche come Università del Friuli, quindi lo vediamo non solo a Udine, ma anche nell'interazione con le città in cui abbiamo sede. Tra le questioni sul tavolo anche la competizione delle università telematiche, sottolinea il rettore Roberto Di Lenarda dell'Università di Trieste, il cui mandato scade ad agosto. Quello che ritengo profondamente sbagliato dell'impostazione delle università telematiche sono, da un lato, il fatto che sono aziende che hanno come obiettivo il profitto, e questo secondo me è incompatibile con la finalità ultima di una formazione di alto livello. Il secondo tema è che in molti casi il livello di qualità formativa e il livello di controllo della serietà dei percorsi formativi non è neanche lontanamente paragonabile a quello delle università che io non chiamo tradizionali, chiamo vere. Gli Atenei poi, assieme al fitto sistema di ricerca che insiste sul territorio, creano l'ambiente ideale per una istituzione come la Sissa. Il direttore Andrea Romanino. Noi abbiamo un vantaggio, quello di insistere su un territorio che è ricco di istituzioni scientifiche, che hanno un tessuto di collaborazioni che si è inspessito negli anni, che è suggellato dal sistema dell'innovazione della scienza del Friuli Venezia Giulia che la nostra regione ha messo in piedi. Un territorio ricco di imprese vivaci, di istituzioni sempre genuinamente vicine e attente alle istituzioni scientifiche. Quindi diciamo il rapporto della Sissa col territorio è estremamente proficuo. Trieste, Lorenzo Ghirlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Da oggi è in libreria il giallo Gelo profondo, la nuova era glaciale, thriller dedicato al problema del cambiamento climatico che ruota intorno a Trieste e coinvolge, sulle tracce di un'organizzazione scientifica segreta, diverse latitudini del mondo. Autore del libro è Andrea Segre, economista e docente di politica agraria all'Università di Bologna, che ha già firmato un primo giallo dedicato a un altro problema contemporaneo, cioè l'obesità, e ora prosegue quella che nei suoi piani è una trilogia dedicata alle emergenze attuali. Abbiamo intervistato Segre per chiedergli una presentazione dell'opera. Penso che il cambiamento climatico, che è un po' la madre di tutto ciò che sta succedendo, debba essere sotto i riflettori, quindi immagino una storia che peraltro si svolge in gran parte a Trieste e che ha come sfondo una straordinaria invenzione che, se messa, diciamo, in campo, potrebbe aiutarci a mitigare il clima. Certo che se poi invece al contrario si usa male, potrebbe portarci a una nuova era glaciale. Come si arriva dal problema del riscaldamento globale, di cui si parla spesso, invece al problema che lei indica nel suo titolo, era glaciale? E a monte c'è un'innovazione, una grande scoperta rivoluzionaria che riesce a sequestrare la CO2, l'anidride carbonica, che è responsabile del riscaldamento globale. Solo che se ne sequestri troppa, e qui c'è un'organizzazione scientifica criminale che, diciamo, si sta adoperando per questo, poi invece, diciamo, di avere un clima mite, incominci ad avere freddo fino ad arrivare a una nuova era glaciale. Qual era il messaggio che voleva trasmettere? La ricerca può far bene, ma può far anche male. Bisogna crederci. Il protagonista è giovane, è un giovane ricercatore che all'inizio pensa che sia tutto bello, poi in realtà c'è qualcosa anche di brutto e lui riesce a intervenire. Poi, bisogna leggere poi il thriller per arrivare alla fine e capire chi è il colpevole. Comunque non è il maggiordomo. Questo è il secondo libro di una trilogia. Ci vuole anticipare quale sarà il tema del terzo e ultimo libro? Il primo è stato il cibo, il secondo il clima. Io penso che il terzo potrebbe essere un'innovazione sociale, qualcosa che condiziona i comportamenti delle persone. Ora lo sport, il basket di A2 dopo la delusione della finale di Coppa Italia persa a Bologna e dopo sole 72 ore di riposo torna in campo questa sera la Gesteco Cividale di fronte per il recupero del 29esimo turno, la Tezenis Verona, squadra che finora ha giocato sotto le attese ma che in classifica solo 4 punti da recuperare sui Ducali, con 6 ulteriori giornate da giocare, una classifica cortissima, 11 squadre in 6 punti e soli 6 posti per i playoff diretti. Uno scontro da vincere per Cividale per mettere un mattone verso uno degli obiettivi stagionali. Fondamentale recuperare le energie, soprattutto nervose, per i ragazzi di Pillastrini tornati da Bologna nella notte di domenica dopo aver giocato 2 partite in 48 ore. Ancora out Mastellari, in dubbio Capitan Rota. Appuntamento alle 20:30 al Pala Gesteco. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti culturali di oggi. Marina Giovannelli, curatrice del libro Femminista Chi? Percorsi, pratiche, linguaggi, visioni, interverrà alla presentazione dell'opera con le autrici a Udine, a Palazzo Bartolini alle 18, sotto la lente, non solo percorsi e pratiche del femminismo storico, ma anche recenti esperienze, aspettative indirizzate alla contemporaneità. E proporrà strategie educative per gestire il tempo davanti agli schermi di cellulari e PC e rafforzare il ruolo degli adulti come guide affidabili per i giovanissimi nel mondo digitale. L'incontro intitolato Adolescenti e digitale tra autonomia e responsabilità a Trieste al magazzino 26 di Porto Vecchio alle 18. Era l'ultima notizia per questa edizione del giornale radio regionale, in regia Marco Ferrito e Caterina Cabrelli. In redazione ha collaborato Laura Sarasini. Da Maria Spezia e Rita Micoli grazie per l'ascolto, l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.